forte, cioè, Luca, mi senti? Vediamo un po', bombogliò. Oh Lu, ci sei. Cingo! Manuel! Illumi! Cingo! Manuel! Oh Lu, ci sei! Guarda adesso se ne senti, ne senti? Manuele! Senti. Ehi, Massino, ma già ti sento. Che senti allora? Illu! Sì, Mi senti adesso che sono fuori? Ti già prendo, dai, anche tu sulla barracca. Ma quasi zero. Scusate. Non va, Basso. Non fate le orecchie per oggi. Mattata. Se un filastrone è meglio. Ce la manca a tutti. E che c'hai? Cosa che c'hai? Brontolando. E beh, ma mi senti? Sì, la buglia, mi sei pacca nella radio. Addirittura. Certo. Bene, sta andando. Sì, è solo che Luca mi sente mezzo al QRM, è normale. Ehi, cosa si vuole pretendere adesso? Oh, fanno anche troppo, là. Sì, vabbè, già andare. Ci devi trovare un attimino. Vediamo. Lasciati. E fatelo fare da... sta coso e te lo piatti almeno senti qualcuno, dai. Ma se solo che non c'ha capo, ma lo minimo una decina di più il capo. Sta grado io Lugano. Ah? Avevo dato il capo io. Sì, lui ha, ce l'ha venduto la buona animale Raffaele, a rame. Cioè, e quello fine, ti compri magari, e per cui va bene lo stesso. Luca, se ce l'aveva, ha detto di no, navia dice un poco, però dice che c'ha quello grosso, il cavo, ma quello grosso no, sennò non mi gioca ma tu va con la buca. Ma io dovrei avere a 10 o 15 metri dovrei avere in campagna di un'antenna che avevamo piazzato sulla veranda e se mi ricordo che la porto su, anzi no, bisogna toglierne l'antenna e prendere il capo, capito? Quello il capo è buono, Intanto lo metto qua, domani, lo metto qua attaccato alla cabina o un giacchillone, non faccio che vada più qui. Lo metto qua, tanto per avere un po' più di riflessione. Ma Zano bisogna fare a cavallino, capito? Ah, c'è l'antenna pure attaccata, dai, c'è l'antenna, va bene l'antenna, me l'aveva fatta Luca a me, siccome io ho messo un altro tipo d'antenna, ero messa attaccata alla mantova, se quella lì ormai non la uso più, sicché c'è il capo e l'antenna. Manzano faremo e ne la caremo. Non dobbiamo andare a sabato per questa cosa. Non dobbiamo fare sabato. Forse ce la facciamo perché devo andare a Banna, ragazzo, che c'è la festa a San Lorenzo, per cui mi sembra che non ce la facciamo. Lasciamo alla settimana prossima, Manuel. Allora abbiamo così, no, sapevo. Andavano a testa, non c'è problema. Manzano, faremo e la caremo questa antenna, dai. Tanto quella non mi serve, c'è il capo attaccato, no? E per un capo attaccato gli viene sopra la banca e la veranda, e per cui potrebbe andare bene quel capo, dai. Una decina di metri sono, una decina di metri la posso mettere anche sopra il tetto volendo, ci dovrebbe arrivare alla camera. No, 20 metri credo che non ci sia, non mi ricordo bene quanti metri sono. Eventualmente si può anche aggiungere lì un pezzo di capo. Non è un problema, non capito. Dicate, pure se la puoi vedere un po', se vedevo qualcuno la parano un capo, io non agio, se no ti posso dare solo questo e basta, a te ne capo. Vabbè, fin dove arriva l'ho messo, cosa devo fare? Fin dove arriva il capo lo metto, il palo, questo di tutti. Non attacchi no, che la barracca già capiva. Vabbè. Allora facciamo così, allora io ripeto, io quando scendo però scendo preso, non scendo a caldo, capito? Io quando paro paro un ghiaccio e allo freddo, capito? Vabbè, scendiamo presto, non c'è problema. Allora, a che ora sei libero tu la mattina? Io ho anche presto, mio domani, verso le 8, le 7, non c'è problema. L'importante è che sto con fa mezz'ora o l'ondi di mezzo a casa, che lo già vado da mangiare a pure. Chissura, no, mi tocca chissura io, non devo fare di sì. Arrugarlo, la saranno. No, io quando scendo, scendo la mattina presto, perché devo anche innaffiare, capito? Io devo anche innaffiare, lo innaffio al fresco, catta. All'otto, massimo l'otto e mezzo, sono in casa io, capito, Emanuele? E come ti fai? No, più tardi è impossibile. Beh, allora, poi si può andare anche domani o quindi a venerdì, non so. Allora, fai la festa, così si sentire bene, se chi c'è Manzano? faremo fare, tu ti ricavi l'antenna, se c'è anche l'antenna da un tubo, e mi fossi ucciso con fare femminile, all'otto e mezzo siamo a casa, massimo all'otto e mezzo siamo a casa, vai. Allora alle 7 domani, facciamo domani alle 7. Oh, è troppo bagio a risette, io vado sempre e si cambia di sei massimo, non di più. E allora a quell'ora, 5 e mezza sì, non so, anche alle 6. Vabbè, tu allora, anziché mezzo, fatta ci ha passato a tua casa e io sono già in macchina, va bene? Sì, allora facciamo domani, dai. Allora cadere dei cacchi e vedo un po' il capo, se ti basta, se non ti basta, vediamo un po'. C'è l'antenna e il capo, attaccata al baro, tanto non mi serve quella, e per cui ti piace quella lì, capito? Vabbè, l'antenna è cos'è, da radiare. Me l'aveva fatta Luca quella lì, mi sembra. L'antenna ha fatto Luca e sarà 70-80 centimetri, non di più. Vabbè, gli andare allora. Mi faccio un po' pure no che gli andare, per sentire un po' di ricezione, per avere un po' più di ricezione. Vabbè sì, perché lo usavo io, così che. E per cui va bene sì. distanza, non è che devi fare da quel nuovo paiolco. Sapete, fate qui le rinocchie, il cintone di rinocchie a posto, capito? Ho capito, andava, andava. Che mezzo sono qui a pronto in macchina? A cosa allora? Luca, ho sentito. No, non l'ho sentito. E mo c'è Libia, chissà. Chissà, mo c'è Libia. Prova da a telefonare se fai dare ricontrollo a vedere se arrivi da Luca. No, ma no. Cosa si vuole pretendere? Capito. È normale, no? Cazzo. Io adesso mi sono fatto quell'antennino piccolino e per cui che, 60 centimetri attaccato qui in una mezzo lo faccio e già mi senti. Sì, anche a me non siamo vicini. Penso a mettere in piazza quell'antenna che c'è giù in campagna e per cui ti piace quella che dopo ti sentiranno più bene, sì. Sì, tanto per fare due chiacchiere vicino, non c'è stabilità, tanto la vita e la frequenza non viene su. Un bel di sera non finisce manco un'anima, manco io. Un bel di sera magari, Vettore Squalo, Bacchiglio, Cacastro, capito? Purtroppo la frequenza sta andando e peggiorando, per cui non è più come prima. O forse è un gas, chissà che hanno un freco, qualcuno si scende e attacchi a Buru. C'è pure il 27, non per manco un'anima, manco un'anima più, tutti voci. Del cavallo, ci sono ma basta di andare a mare, tutti non puoi stare sempre attaccato, che c'è Gigio, con un guardo caffè, come ti fa, non puoi stare attaccato, magari è stato più fresco, magari qualcuno gli si affaccia di più, capito? Ma va, per caso, e come ti fa stare sempre attaccati là, che non saranno? Ah, io sei anche per quella, anche per quella. Lo credo bene, se per la terra serra va più bene ancora, capito? Ok, dai, ci sentiamo dopo che mi stanno chiamando. Ok, domani, dai, ci sentiamo dopo. Tanto domani qua.